Dove si trova esattamente? Io mi trovo in una cittadina che si chiama Ann Arbor, nel Michigan, che però è una cittadina campus nell'area suburbana di Detroit. Quindi allora, prima di capire che cosa ci fa in quel luogo, sentiamo la scheda che ha redatto Giampaolo Colletti. Nell'italianissima fuga dei cervelli può capitare di imbattersi in chi, nonostante abbia avuto una docenza e quindi un posto fisso, decida comunque di mollare tutto e diventare VW worker. Questa è la storia del più giovane docente universitario italiano, che un bel giorno ha deciso di rinunciare alla cattedra e di trasferirsi all'estero. Luca Chan prima era un professore di psicologia del lavoro all'Università di Trieste. Luca si è scontrato con un magro stipendio e l'assenza totale di fondi di ricerca. Così ha rinunciato ai corsi già vinti e fa i bagagli. Destinazione Ann Arbor, in Michigan, una cittadella campus vicino Detroit. Ora fa lo studioso indipendente alla Ross Business School, una delle 5 migliori business school al mondo. Luca scrive articoli e ricerche e collabora con i docenti statunitensi. Usa la rete come strumento di lavoro e dubita di tornare in Italia. Almeno per ora. Allora, Giampaolo, innanzitutto raccontaci come hai trovato Luca Chan. Ma Luca l'ho trovato in realtà nello spostamento che l'ha portato dall'Italia, quindi dall'Università di Trieste, agli Stati Uniti. Ed è stato un po' per caso, però poi in realtà ho scoperto che ci sono tanti ricercatori che dall'Italia decidono di andare all'estero, però questo è il paradosso di Luca: abbandonano il posto fisso, anche una cattedra pagata, magari male ma pagata, e decidono di mettersi in proprio. Allora, insomma, così sembri un eroe, Luca. Cioè, che cosa è successo realmente? Anche perché, insomma, il tema dell'università in Italia, sai benissimo, è caldissimo. Infatti, tanto più in questo periodo qui. No, in effetti, finita l'università, io ho avuto anche una bella esperienza all'università italiana, nel senso che fino da subito hanno creduto in me e appena finita l'università ho iniziato il dottorato in un'università e nell'altra ho iniziato subito a insegnare. Molto giovane, tant'è che iniziavo a mettere anche gli occhiali per sembrare un attimo più vecchio.